Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo di nuovo della vicenda della Banca Popolare Spagnola, il Banco Popular, ma vicenda che, contrariamente a quanto abbiamo sperato, ipotizzavamo in questi giorni, non sta diventando, alla luce di quanto è avvenuto ieri sera, ossia il Banco Santander ha acquistato il Banco Popolare per un euro, evitando così il bail-in di una grossa banca che ha le dimensioni più o meno del nostro Monte dei Paschi di Siena. Dicevo, contrariamente a quanto uno poteva augurarsi, questa vicenda non sta diventando un aiuto per il problema italiano di Popolare Vicenza e Veneto Banca, ma al contrario avrà quasi un effetto boomerang. Perché? Perché molti stanno facendo notare che l'operazione orchestrata in Spagna rafforza la credibilità delle istituzioni europee e dimostra che la soluzione si può fare, una soluzione interna, e quindi lascia, se mi passate il ragionamento, ancora più isolate le due banche venete e la loro necessità di avere un aumento di capitale che è praticamente pubblico, ma a fronte di una richiesta d'Europa di 1 miliardo invece di euro di soldi privati. Tradotto, Bruxelles potrebbe dire, e anche Francoforte potrebbero dire, vedete, la Spagna ha risolto il problema del Banco Popolare con un'operazione interna di sistema suo, cioè con il Banco Santander che l'ha comprata per un euro, fate lo stesso anche in Italia, perché in Italia avete un problema a trovare 1 miliardo a fronte dei quasi 4 miliardi che metterà lo Stato dentro le due venete. Quindi rischia in questo senso di essere un boomerang, e ne parleremo più avanti. In apertura invece, per quello che riguarda la giornata economico-finanziaria, avremo punto con il settore auto, perché oggi Radio 24 è in diretta, anche oggi in diretta con alcuni programmi dalla terza edizione del Salone dell'Auto di Torino, 50 brand automobilistici, 800.000 visitatori attesi, e con un'attenzione particolare per l'auto a guida autonoma, che insomma è la frontiera su cui stanno lavorando tutte le case automobilistiche. E poi avremo anche un approfondimento invece per quello che riguarda i temi sempre di giornata sul rapporto Censis presentato oggi al Welfare Day 2017. Sostanzialmente il Censis cosa dice? Dice una cosa che molti ascoltatori già sanno, ma che insomma detta a livello ufficiale fa ancora più effetto: la sanità in Italia ormai non è più una sanità pubblica intesa come sanità per tutti, e a maggior ragione una sanità, aggiungo io, che deve essere ancora più utile per chi ha meno possibilità economiche e un reddito più basso. Perché? Perché sale a 35 miliardi di euro la spesa che gli italiani fanno di tasca propria per la sanità, più 4%, questo nel periodo 2013-2016. E l'area della sanità negata continua ad espandersi. Nell'ultimo anno 12 milioni di italiani hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie. Guardate che sono 1 milione 200 mila in più rispetto all'anno precedente. Anche ammesso che alcune non fossero così urgenti, la cifra è impressionante. Dicevo, 12 milioni di italiani hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie per motivi di carattere economico. Quindi questo vuol dire aumentare, oltre che le difficoltà economiche delle famiglie e degli italiani, anche le disuguaglianze, perché sono 13 milioni di italiani che nell'ultimo anno hanno sperimentato difficoltà economiche o una riduzione del tenore di vita, per far fronte alle spese sanitarie di tasca propria. Se altri 8 milioni hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche, 2 milioni sono entrati nell'area della povertà. E poi crescono le liste d'attesa e quant'altro. Ne parleremo, ripeto, nella prima ora del programma. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. La borsa è leggermente positiva a Milano, come nel resto d'Europa, più 0,16 Milano, più 0,30 Parigi, più 0,1 Francoforte, meno 0,50 invece Londra, e il Dow Jones è invariato. E tra i titoli oggi soffre, ricordati, perde il 2% come Yux & Rapporteur, Buzzi meno 1,40 come Azimut e Eni, Brembo meno 1,30, Leonardo meno 1 come Exor. Guadagna molto invece ST Microelectronics, il 4%, Prismian il 2,90, Banca Generale il 1,80, Unicredit più 1,30, Fiat più 1 come A2A, e Biper Banca e Telecom Italia e Fineco Bank e Mediobanca. Rapidamente le altre notizie in breve. Partiamo dal petrolio, dove non è tanto il Qatar oggi a pesare, ma soprattutto l'aumento a sorpresa delle scorte di petrolio statunitensi. Il prezzo del petrolio ha preso una sberla, ha perso quasi il 5%, più o meno il 4,40-4,50, a $46 al barile. Invece, venendo all'Europa, la Banca Centrale Europea ha tagliato le stime sull'inflazione, resterà all'1,5% fino al 2019. Questo è molto importante perché sappiamo che quando arriverà intorno al 2% Mario Draghi non potrà più avere, diciamo, la grossa pezza d'appoggio per mantenere i tassi di interesse a zero e continuare a comprare titoli di Stato e quindi iniettare di liquidità l'area euro. Però le ha riviste a ribasso all'1,5% l'inflazione sia quest'anno che nel 2018 e nel 2019. A questo proposito, oggi il segretario generale dell'OCSE, José Ángel Gurría, presentando le prospettive economiche dell'OCSE a Parigi, ha detto che ci vorranno anni per ritrovare la situazione pre-crisi, anche se l'economia mondiale sta migliorando. Migliora ma non abbastanza, la crescita dei salari a livello mondiale resta debole. Per quello che riguarda l'Italia, la ripresa in Italia continuerà ad essere moderata, prevedono quest'anno un più 1% di crescita del PIL e un più 0,8, quindi in calo, l'anno prossimo, a causa della stretta fiscale già adottata, che avrà ripercussioni sul 2018 e quindi include anche gli effetti della manovra che bisognerà fare in autunno. E poi per l'Italia è cruciale andare avanti con le riforme, il debito è ancora troppo alto ed è un punto debole, tra l'altro con i 20 miliardi che il governo ha stanziato per la ricapitalizzazione delle banche, dice l'OCSE, se la cifra dovesse essere usata tutta, da quello che noi vediamo no, però questo vorrebbe dire un aumento del debito pubblico pari all'1,2% del PIL. Dati italiani sul commercio, li ha diffusi oggi l'Istat, più 1,2% ad aprile rispetto a un anno prima. Tra l'altro la crescita che viene registrata è un più 1,2% in valore, il volume è più 0,3%. La crescita è più forte per i prodotti alimentari, più 4% in valore, più 2% in volume. Le vendite non alimentari al contrario cadono dello 0,7%. In valore soffrono soprattutto i piccoli negozi, che segnano un altro calo anno su anno, meno 1,7%, corre la grande distribuzione, più 4,3%. Sì, qui c'è la crisi, ma non c'è solo la crisi, lo dico che mi sta scrivendo al 349-238-6666. Abbiamo fatto molti approfondimenti in questi anni sul mondo del commercio, c'è sicuramente la crisi, ma c'è anche un modello che è completamente cambiato. Non è solo l'acquisto online, quando parliamo di esercizi commerciali c'è anche quello, ma c'è una diversa fruizione e atteggiamento anche del consumatore, del cliente, per cui sì, c'è la crisi, ma i modelli di business nel mondo del piccolo commercio devono assolutamente cambiare. Poi uno mi può dire, si stava meglio 20 anni fa, ho capito, ma intanto devi sopravvivere adesso. Dicevo, per quello che riguarda invece i dati della spesa sanitaria, delle liste d'attesa, li affrontiamo a breve. È chiaro che, come era immaginabile, ci sono delle diversità enormi tra la sanità al sud e la sanità al nord, e questo non è attribuibile solo all'aspetto economico, è un problema di mentalità, efficienza, gestione, capacità di organizzazione, perché non si può, siccome il servizio sanitario è nazionale, di furti, di legalità, di spese, perché non è possibile che in Italia per una mammografia si attendano a mezzogiorno 140 giorni, mentre nel nord del paese si va dai 60 agli 80 giorni, capito? O diciamo che ci sono più mammografie al sud, o diciamo che forse c'è una minore capacità di organizzare il lavoro, o in alcuni casi anche la voglia di portare i pazienti sul privato, sulla clinica privata, vari interessi, delle volte anche dei medici stessi. Insomma, non diamo sempre la colpa alle risorse. Anche qui, risonanza magnetica, 60 giorni nel centro nord, 111 al sud. Solo un problema di soldi? Visita ginecologica, 30 giorni al nord, 72 al sud. Vabbè, vi arriviamo tra poco. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Primo tema, allora, dove va il mondo dell'auto? Radio 24 lo segue sempre con interesse, e anche quest'anno segue la terza edizione del Salone dell'Auto di Torino. 50, dicevo, brand automobilistici presenti, 800.000 visitatori attesi, e poi addirittura è prevista una dimostrazione su un percorso di 2 km per le auto a guida autonoma. Chi mi scrive che ha capito che io non ho simpatia per il Sud Italia, no, guardi, non ha capito nulla. Io ho solo detto che continuare a dare la responsabilità solo alle risorse, che sono importanti, senza ammettere che delle volte la responsabilità è anche individuale, della gestione, dei direttori delle AS, dei primari, dei reparti. Abbiamo una classifica che spesso purtroppo si occupa di sprechi o ruberie nella sanità, significa vedere solo mezza verità. C'è sicuramente un problema di spesa sanitaria nazionale, ma a parità di spesa alcune regioni riescono a organizzarsi bene e hanno un servizio sanitario con determinati indici, e altre no. Okay? Stranamente spesso gli scandali, non sempre, riguardano proprio quelle regioni. Questo abbiamo detto. Okay? Tutto qua. Qualcun altro mi scrive, ma perché non cita gli stranieri extracomunitari che usufruiscono della sanità? Sicuramente possono creare un problema, però guardate che gli extracomunitari sono al nord, al centro, al sud, sono, poi che questo possa creare un problema nell'assistenza, per carità, ma insomma, dai. Non ho mai detto che siano accettabili 60 giorni al nord, mi scrive un ascoltore che a Negrar, per una provincia di Verona, per una mammografia ci vogliono 8 giorni, appunto, le medie sono sempre medie. Ho detto solo che, così come non sono accettabili i tempi in generale di media, è ancora più inaccettabile vedere che questi tempi cambiano in maniera ingiustificabile a seconda di dove si trovi l'ospedale, a parità di risorse. Su. Direttore dell'ANFIA, che è Associazione Nazionale Filiere Industria Automobilistica, 260 aziende associate, Gianmarco Giorda, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora Giorda, voi state presentando oggi, in questi giorni, tutte le novità nel mondo dell'auto. Ce n'è una dove io personalmente ho un conflitto di interesse fortissimo, cioè finché uno in automobile deve usare le mani sul volante tende ad ascoltare la radio, qualunque radio, anche Radio 24. Quando vi sarà la macchina a guida autonoma, noi siamo fregati, perché uno inizierà a navigare, a guardarsi YouTube, i filmati, e a quel punto non ascoltare più la radio, che in qualche caso quasi un ascolto obbligato se guidi. Ho visto qualche padroncino sulla Milano-Brescia-Bergamo guidare leggendo il giornale, ma insomma non lo consiglio in generale. Ecco. A che punto siamo sull'auto a guida autonoma, nella speranza mia che non si realizzi mai? Beh, innanzitutto ci vorranno ancora un po' di anni prima di avere una guida completamente autonoma, non stiamo parlando di decenni, ma indicativamente 5-10 anni. Tenga conto che ci sono 5 livelli di automazione e siamo più o meno a metà, per cui siamo a livello 3, ne mancano ancora 2, ma gli ultimi 2 sono quelli che chiaramente necessitano di investimenti e di ricerca comunque chiaramente molto, molto più avanzata e molto più robusta anche rispetto ai livelli già raggiunti. Già adesso però ci sono comunque dei sistemi di aiuto e di supporto alla guida che si chiamano ADAS, che in qualche modo, diciamo, fanno un po' da ponte rispetto poi a quella che sarà una guida totalmente autonoma, dove in effetti il driver, come diceva giustamente lei, può anche disinteressarsi del volante e occuparsi di altro. Diciamo che l'orizzonte temporale che noi vediamo è di una decina di anni, però settore sta già facendo tutta una serie di migliorie e di miglioramenti tecnologici già per permettere alle automobili di oggi di avere dei sistemi che diano sicurezza al guidatore. No, quelli vediamo, i sistemi di frenata automatica, adesso la dico male, ma per capirci, sì, di fronte al pedone e quant'altro. Senta, però, sul tema dell'auto a guida autonoma, sì. Noi tutti ci stiamo occupando dell'avanzamento tecnologico e dell'affidabilità sulla sicurezza del passeggero, oltre che del pedone o dell'altra autovettura. Però non intravede lei un problema grosso come una casa anche di carattere legale assicurativo? Sicuramente sì, ne vedo due oltre che al tema tecnologico. Nel senso che adesso la responsabilità, se io botto una macchina, stiamo su cose leggere, tampono qualcuno senza, è comunque mia. Non vorrei mai che un domani... Cioè, tutta la normativa è ancora da scrivere, perché sì, se per caso c'è un problema di malfunzionamento nella centralina, la dico male, ma per capirci, la responsabilità è mia o del costruttore? È un po' come quando uno dovesse aver avuto un problema alla macchina per colpa del costruttore. In quei casi vengono ritirate le auto, ma non si dà la colpa all'autista. Assolutamente sì. Lei ha centrato uno dei due punti fondamentali. Il primo punto è quello del tema assicurativo. È ancora da scrivere la normativa e da definire bene quali saranno le regole del gioco, anche perché non dimentichiamoci che ci sarà un periodo abbastanza lungo di transizione in cui ci saranno sulle strade automobili a guida autonoma che dovranno, diciamo, coesistere, coabitare con automobili che andranno invece ancora a guida manuale, per cui questo è un tema fondamentale, non è che si, diciamo, gira il rubinetto e di colpo tutte le auto saranno a guida autonoma, per cui ci sarà un periodo di phase-in in cui ci saranno auto a guida autonoma e auto a guida, diciamo, manuale. Il secondo tema fondamentale è quello della cyber security, nel senso che sarà fondamentale garantire anche che questi sistemi tecnologici siano esenti da ogni rischio di hackeraggio, perché un conto è hackerare, benché sia grave, uno smartphone, un telefonino, un conto è hackerare una centralina che, diciamo, è responsabile poi della vita di più persone. Sì, qualcuno mi scrive, ma sarà ancora obbligatoria la patente a quel punto? Penso di sì, quantomeno. Direi di sì, perché come dicevo prima, non sarà ovviamente obbligatorio guidare a guida autonoma, ci saranno ancora altre vetture che comunque, tipo le sportive, le auto, le supercar, le sport car, che probabilmente non avranno questo tipo di tecnologia e daranno ancora, tra virgolette, il godimento che all'automobilista piace e che vuol comunque continuare. Sì, mi stanno bombardando gli ascoltatori di ipotesi, ma insomma, se il sistema non rileva una modifica temporanea del traffico, un cartello di limite alla velocità e prende una multa con l'auto velox, chi paga la multa? E punti sulla patente, cioè chi paga la multa? E il tema, guardi, come dicevamo prima, al di là dei casi singoli, è vastissimo. No, il tema è vastissimo, ma è della responsabilità giuridica, certo, di quello che capita. Adesso chiaramente la responsabilità è sempre mia, è difficile che io possa dire ho superato i limiti di velocità perché mi si è bloccato il piede sull'acceleratore, certo, che non funzionava, mi ricoverano, si dicono cose del genere. Però altra cosa è dire, insomma, la responsabilità giuridica e quindi penale, oltre che nei confronti dell'assicurazione, a chi va se c'è un errore oppure un errore anche, diciamo, non previsto, appunto non rilevare un cambio di traffico, un cambio di velocità in quella tratta. Dopo il meteo, però, visto che lei ha detto che prima di 10 anni non se ne parla, qualcuno mi scrive: tanto lei sarà già licenziato per quel tempo, come no, e potrà fare altro. Sicuramente verrò a dormire a casa sua, a casa di chi scrive, ma dopo vorrei invece capire un fronte molto più vicino, al di là dell'auto a guida autonoma, ossia tutto il mercato delle ibride e delle elettriche, cioè delle auto, diciamo, che non vanno necessariamente a gasolio o a benzina. Dopo il traffico, 349, dopo il meteo, 349-238-6666 per sms e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. minuti. Dunque, l'altro grosso tema in questa edizione, terza edizione del Salone dell'Auto di Torino, riguarda, dicevo, le vetture elettriche, ibride e quant'altro, dove invece mi sembra di capire, Giorda, i tempi sono molto più stretti, anche perché le applicazioni sono già operative in molti casi. Sì, diciamo che l'auto elettrica è sicuramente il futuro. Noi crediamo che, appunto, la mobilità elettrica nei prossimi anni possa avere uno sviluppo significativo, però riteniamo ancora che in questi anni ci possano essere altre tecnologie oltre all'elettrico che sicuramente possono essere considerate sostenibili dal punto di vista ambientale, possono essere interessanti anche per ridurre i consumi per gli utenti e per dare una mano, appunto, alla sostenibilità ambientale. Mi riferisco per esempio anche a tecnologie come il GPL, come il metano, piuttosto che lavorare anche sull'efficientamento ulteriore delle tecnologie diesel, perché oggi il diesel è molto demonizzato, però il diesel di ultima generazione è sicuramente un'alimentazione che ha fatto passi da giganti in termini di riduzione del PM10, NOx e quant'altro. Ecco, su questo la interrompo, perché oggi a inaugurare i lavori è stato il ministro alle infrastrutture e trasporti Graziano Del Rio, che ha commentato anche la recente decisione della Commissione europea di riaprire la vicenda delle emissioni dei motori diesel del gruppo Fiat Chrysler. Così al microfono del nostro Andrea Ferro. La polemica Italia-Germania sulle emissioni era stata chiusa a marzo con la procedura di mediazione che aveva trovato la Germania concorde e aveva accettato le conclusioni dei nostri studi e idem la Commissione europea, per cui sono rimasto molto sorpreso di questa riproposizione della procedura da parte della commissaria. Non abbiamo problemi a rispondere e a fornire tutte le documentazioni necessarie, però su questo non c'è nessun dubbio. Come ho sempre detto, non abbiamo niente da nascondere, niente da occultare, ecco, appunto. Quindi molto volentieri i documenti sono a disposizione, le prove sono a disposizione, e quindi non ci sono siamo semplicemente molto sorpresi di questa decisione, perché oggettivamente la cosa era già stata archiviata. Qui stiamo parlando anche di questioni che peraltro hanno già avuto un superamento tecnico, quindi sono già stati dismessi alcuni dispositivi di protezione motore, quindi sono già stati aggiornati, quindi stiamo veramente discutendo di una cosa che non c'è. Questa è la posizione del ministro Del Rio. Venendo all'ultimo tema invece, Giorda, l'andamento, quindi andiamo dal futuro al presente prossimo, al presente presente, indicativo presente, le immatricolazioni. I primi 4 mesi di quest'anno a livello europeo c'è stato un più 3,7%, molto forte in Italia, più 8%, Spagna più 6%. Tra l'altro Fiat ha aumentato la quota del mercato al 7,6% in Europa, che è cresciuta di quasi l'11%. Che cosa vi attendete per l'anno in corso sia su Italia che su Europa? Ma direi che su Europa l'andamento che prevediamo sarà un più 3-4% a fine anno, mentre per quanto riguarda l'Italia contiamo di chiudere la fine dell'anno con un più 8-9%, per cui ci attestiamo al 1.950.000 vetture immatricolate, per cui ci avviciniamo alla fatidica, diciamo, cifra dei 2 milioni di auto, di unità vendute, lontane ancora rispetto agli anni pre-crisi, ma riteniamo che un paio di milioni sia un mercato giusto, equilibrato per l'Italia. È un mercato tonico, devo dire, in questi ultimi mesi. Sta crescendo di più il canale noleggio e il canale società rispetto al canale privato, anche grazie alle misure come il superammortamento, che hanno sicuramente aiutato anche al rinnovo del parco circolante. Per cui sostanzialmente un mercato tonico. Sta andando anche molto bene il mercato degli autocarri, dei rimorchi, sistemi di rimorchi, per cui in generale, dopo anni difficili, devo dire che negli ultimi due anni il trend ha cambiato fortunatamente direzione e siamo positivi sicuramente per i prossimi 2-3 anni. Allora, grazie, buon Salone dell'Auto di Torino. Noi invece dal Salone dell'Auto e dal futuro anche dell'automobile, oltre che dal presente delle matricolazioni, ci spostiamo adesso al mercato per poi passare al tema che annunciavo, quello della spesa sanitaria e della, scusatemi, non della spesa sanitaria, della sanità sempre meno per tutti e sempre meno pubblica in questo paese. 349-238-6666 per SMS, WhatsApp, la borsa. Giornata piatta in tutta Europa, -0,1 Milano, -0,1 Parigi, -0,1 Francoforte, Londra -0,60, Dow Jones invariato, non tantissimi gli spunti. Da noi spicca però ST Microelectronics +3,80%, poi bene anche Prismian, l'ex Pirelli Cavi +2,70, Banca Generali +2,5, Fineco +1,20, Fiat +1% come Unicredit. Leonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Partiamo da ST Microelectronics e Prismian. Sì, soprattutto diciamo anche Banca Generali a questo punto, facciamo tutte e tre. Cioè, innanzitutto il mercato è stato molto volatile, come hai detto tu, ST ma anche Prismian si sono confermate in territorio positivo. E per quanto riguarda Prismian, a riaccendere i riflettori sull'azienda sono state le notizie che sono emerse dall'Offshore Wind Energy, cioè una conferenza che si è tenuta a Londra proprio sul settore in cui opera la stessa Prismian. Erano presenti anche i vertici di Prismian, che hanno fornito indicazioni positive soprattutto sul settore in cui operano, dei cavi sottomarini per il quale ci dovrebbero essere ordini previsti in aumento nel triennio 2017-2019. Quindi questo ha riacceso l'attenzione e i riflettori sulla società, e di conseguenza sin dalle prime battute di questa mattina i titoli hanno imboccato la strada del rialzo, e quando anche l'indice è andato in territorio negativo si sono comunque mantenuti in evidenza. E questo per quello che riguarda appunto ST, Prismian e Banca anche Generali, mentre ha toccato nuovi minimi adesso, da 6 mesi, il titolo Mediaset. Non è che oggi sia calato tantissimo, -1%, però impressione, diciamo, il livello cui è arrivato, no? Sì, esatto, cioè il titolo si è letteralmente sgonfiato, è arrivato ai minimi da 6 mesi. In verità questa mattina 3,47 euro. Sì, fino a metà giornata le azioni avevano provato a recuperare, a rimbalzare, e poi invece soprattutto nelle ultime 2 ore di contrattazione insieme alla borsa hanno perso terreno e sono poi scivolate in territorio negativo. In questo caso continua a pesare l'incognita di Vivendi, non sappiamo bene quali saranno le intenzioni del colosso francese, che ricordiamo al momento detiene quasi il 30% dei diritti di voto in Mediaset. L'ipotesi è che le possa congelare, ma c'è chi continua a immaginare che alla fine le autorità potrebbero indurre il colosso francese anche a vendere le proprie azioni. Sicuramente una risposta dovrà essere data entro il 18 giugno, quando appunto Vivendi dovrà indicare quantomeno la roadmap e probabilmente prenderà ancora una volta tempo, però qualcosa dovrà comunque dichiarare. Poi oggi c'è stato anche il tema della dei diritti di calcio. Ricordiamo che Mediaset aveva presentato ricorso all'autorità contro i risultati della gara per i diritti di calcio, e proprio pochi minuti fa è uscita la notizia che l'antitrust si riserva di decidere sull'esposto di Mediaset. Sì. Una notizia che è abbastanza positiva, perché non è stato rigettato quindi l'esposto della società. Allora, Eni meno 2%, complice il crollo del prezzo del petrolio, come ricordavamo in apertura, Azimut meno 1,80, Jux Santa Porte meno 1,70, ricordati meno 1,60 come Buzzi Unicem, Brembo meno 1,30 come Unipol, l'1,1 lo perde Leonardo, Tenaris e anche Campari, l'1% il calo di Unipol Sai ed Exor, ma anche Case New Holland. Migliori e peggiori, Visibile Editore più 42%, Piteco più 9,90, Casta Diva più 7,90, Lucisano più 7,60, Fronte Opposto, Safe Bag meno 9,40, Exprivia meno 6,90, Clabo meno 5,50%. Grazie, l'onore Michele. Andiamo sul traffico e poi ci occupiamo del rapporto Censis sul welfare nel nostro paese. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Si dice welfare, ma si legge sanità. Faircam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta Focus Economia. Dunque, poi parliamo anche delle differenze inaccettabili tra nord e sud, così faccio contento anche chi continua a dirmi che sono un razzista, un polentone leghista, però vi arriviamo. Prima di tutto però il rapporto complessivo sulla sanità nel nostro paese. Dice il Censis nel rapporto Welfare Day 2017, la sanità non è più per tutti. I cittadini spendono 35 miliardi di euro di spesa di tasca propria, cioè privata, per la sanità, più 4% nel 2013-2016 come periodo, e l'area della sanità negata continua ad espandersi. Nell'ultimo anno 12 milioni e 200 mila italiani hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie, sono 1 milione e 200 mila in più rispetto all'anno precedente, con disuguaglianze crescenti, perché chiaramente quando la sanità è sempre meno pubblica è sempre peggio per chi ha poco, e invece se ne accorge poco chi ha tanto, cioè il danno è tutto sulle fasce basse, non certo su chi ha stipendi buoni o patrimoni buoni e può permettersi la sanità privata. E infatti si parla di disuguaglianze crescenti, per cui 13 milioni di italiani, di cui 7 milioni e 800 mila hanno dovuto utilizzare i propri risparmi o indebitarsi per ricorrere a spese sanitarie di tasca propria, e 1 milione e 800 mila sono entrati nell'area della povertà. Poi ci sono le liste d'attesa. Allora ringrazio intanto per averci raggiunto il collegamento la responsabile area welfare e salute del Censis, Chetti Vaccaro. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Perché quando parliamo di disuguaglianza non c'è solo il dover ricorrere alla spesa privata in senso stretto, c'è anche l'essere portati alla spesa privata, alla struttura privata, dai tempi di attesa. Insomma, voi stimate 122 giorni in media in Italia per una mammografia, 60 in più rispetto al 2014, 93 giorni per la colonoscopia, 6 giorni in più rispetto al 2014, 80 giorni per una risonanza magnetica, 6 giorni in più rispetto al 2014, anche qui 67 per la visita cardiologica. Questa è la media. Al sud tutti questi numeri salgono e schizzano come tempi di attesa, più 8 giorni. Visita ginecologica 47 giorni, anche qui 8 giorni in più rispetto al 2014. Visita ortopedica 66 giorni, 18 giorni in più rispetto al 2014. Perché oltre che spendere più soldi per le cure private aumentano anche le liste d'attesa, dottoressa? Beh, innanzitutto è un problema di organizzazione del servizio, perché non siamo ancora riusciti a stabilire dei criteri di prioritizzazione che siano efficaci, questo è il punto. E poi c'è un utilizzo, diciamo, delle risorse all'interno delle strutture ospedaliere che non è al massimo delle potenzialità. Questo è un problema, diciamo, organizzativo complessivo, che però ricade di più e manifesta i suoi effetti in misura maggiore proprio in alcuni territori che hanno una, diciamo, offerta potenziale almeno di qualità tendenzialmente più bassa, anche se devo dire che in alcuni casi nei giorni maggiori di lista d'attesa non ce l'abbiamo neanche al sud, ma ce l'abbiamo al centro, per esempio. Vero. E mi stanno scrivendo molti dalla Toscana, devo dire la verità. Esatto. Non so se questo sia un motivo. Toscana, Lazio anche, cioè sono regioni in cui esiste un problema di macchina organizzativa, diciamo, di non utilizzo al massimo delle risorse, intendo sia risorse tecnologiche che risorse di personale, per cui molto è stato fatto e si sta facendo, ma ancora alcune difficoltà non riescono ad essere superate. Questo purtroppo è il dato che ci costringono a rilevare senza mutazione di rilievo, anzi con dei dati che segnalano un peggioramento di anno in anno. Allora, due precisazioni. Basta con le cavolate, mi scrive un ascoltatore Barisoni, i poveri sono esenti, chi è in difficoltà, chi... Sì, ho capito, però qui non stiamo parlando solo di chi è esente, stiamo parlando anche di chi viene cacciato su una soglia di povertà perché deve affrontare, non essendo esente, spese sanitarie, su ben capito, dottoressa, no? Cioè, è chiaro... Dunque, io direi questo, che il vero paradosso è che noi abbiamo un servizio sanitario nazionale che, voglio precisare, per noi è un valore. Certo. E se cerchiamo di fare queste operazioni di disvelamento, se parliamo di universalismo di facciato, di universalismo selettivo, è proprio perché vogliamo evitare che il sistema imploda. Vogliamo che alcuni nodi vengano al pettine per provare a trovare delle soluzioni. Questo ci tengo a precisarlo, perché per me il Servizio Sanitario Nazionale è un valore e lo è per gli italiani, che certo, continuano a ribadirlo in tutti i nostri, tutte le nostre indagini. Il problema reale è vero, i poveri sono esenti, i cronici sono esenti per molte, ma non per tutte le prestazioni. Il problema è che questi dati mettono in luce che il fatto che coloro i quali rinunciano o rinviano le prestazioni, si tratta soprattutto di prestazioni di specialistica e di prestazioni diagnostica, di visite odontoiatriche, sono proprio coloro, cioè i cronici versus gli acuti, cioè le persone che hanno più bisogno di cure protratte nel tempo, vengono di fatto penalizzate perché, insomma, parliamoci chiaro, talvolta si deve mettere mano al portafoglio, non soltanto per andare nel privato perché devo bypassare la lista d'attesa, ma anche perché devo pagare un ticket, certo, che crash e che rende difficile l'accesso a una prestazione. E questo è il caso che capita più frequentemente proprio a chi ha una patologia cronica rispetto allora, a chi ha una patologia dopo il GR24 vorrei capire ancora meglio se il problema sia di spesa sanitaria complessiva, più o meno vale 112 miliardi di euro, o al di là del fatto che noi non spendiamo più di altri paesi, siamo al 9% del PIL, la Germania all'11%, la Francia all'11%, la Spagna come noi, o di organizzazione, quindi di responsabilità anche dei dirigenti, degli ospedali, dei primari, tutto il giochetto che ogni tanto viene fatto tra, con lista d'attesa lunghissima in ospedale, invece lista d'attesa brevissima se vai nella clinica privata, cioè se la colpa è sempre delle risorse nazionali o c'è una colpa anche specifica delle strutture sanitarie, in alcuni, non tutte, ma di alcune strutture sanitarie, per non dare sempre la colpa allo Stato che elargisce poco, fermo restando che noi non spendiamo tantissimo in media europea per la spesa sanitaria, forse spendiamo male. Dopo il GR24 la risposta, e poi parleremo delle banche. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Di nuovo in diretta, 18:09 minuti con Sebastiano Barisoni. Dunque, vorrei concludere l'approfondimento sul rapporto Censis Welfare Day 2017. Dottoressa Chetti Vaccaro, che è appunto responsabile dell'area welfare e salute del Censis. Al di là del fatto che noi non spendiamo più, anzi spendiamo meno complessivamente di spesa sanitaria di altri paesi in rapporto al PIL, ma il problema di quello che voi avete fotografato, aumento delle liste d'attesa, milioni di italiani che devono spendere complessivamente una cifra di 35 miliardi di euro di tasca propria, e con un aumento anche di quelli che vanno in difficoltà economica o sulla soglia di povertà, è dovuto a poche risorse, o alla, diciamo, alle risorse non altissime a livello di spesa sanitaria nazionale, o è più dovuto alla gestione dei singoli direttori di ASL e dei singoli primari, dei reparti, come scrive qualcuno, anche l'intramoenia e questa, diciamo, tendenza che hanno alcuni medici di spingere per la clinica privata dove lavorano con liste d'attesa più basse rispetto a quelle più alte nel pubblico? Allora, entrambe, perché sicuramente questo è un dato che non possiamo non ricordare: da noi il valore pro capite della spesa sanitaria pubblica negli anni della crisi è diminuito, mentre in altri paesi cresceva. Quindi, insomma, questo è un dato che, tant'è vero, la stessa Corte dei Conti ha ammesso e ha ribadito che il contributo del settore sanitario al risanamento dei conti è stato un contributo di rilievo. Qual è però il problema? Che anche i cittadini hanno dato un grande contributo in questi anni alla sostenibilità del sistema, perché nel frattempo la loro spesa privata è aumentata, ormai è arrivata a quasi un quarto della spesa sanitaria totale. Allora, la compartecipazione è aumentata in questo periodo del 32,4% in termini reali, cioè quello che voglio dire è che ci sono tutti e due gli elementi, cioè c'è una quota di risorse, probabilmente legata anche alla nostra capacità di produrre ricchezza, ma quello è un altro problema, assegnata alla sanità pubblica che diminuisce, e nel frattempo, siccome si tende a far aumentare appunto il contributo che chiediamo ai singoli cittadini, hanno un peso anche quegli escamotage a cui faceva riferimento lei. Perché nella pratica quotidiana gli italiani ci hanno raccontato che la loro netta sensazione è quella di spendere di più per avere di meno. E questa questione, per esempio, del bypassare le liste d'attesa andando all'intramedia è una cosa che accade, purtroppo. Questa cosa accade ed è un segnale appunto di questa tendenza a chiedere un contributo diretto al risanamento del sistema agli italiani. Il problema qual è? Che questo tipo di contributo finisce per essere regressivo, perché io chiedo di più a chi ha più bisogno, e questo è, certo, come dire, il vulnus reale del sistema, perché se spende di più chi è più malato non è una cosa normale. In un sistema universalistico dovrebbe accadere esattamente il contrario, cioè le risposte dovrebbero essere finalizzate in misura più efficace proprio per coloro che hanno un bisogno sanitario più elevato, certo. E questo è il punto. E qua vengo all'ultimo aspetto: le distanze tra nord e sud si ampliano. Allora, siccome noi sappiamo che la spesa sanitaria nazionale qui non è un problema, in questo caso non è un problema, cioè i soldi sono pochi, ma sono pochi per tutti. Sì. Allora, il 65% degli italiani nella vostra ricerca che vivono in generale è soddisfatto, che è un dato ancora buono, però al sud i soddisfatti sono il 47%, esatto. Sono il 60% al centro e il 76,5% al nord, dove arrivano all'81% nel nord-est, okay? Che è una cifra, mi sembra, più che buona come l'indice di soddisfazione. E poi se si va a vedere la classifica, si nota che al mezzogiorno l'attesa sui giorni, i giorni di attesa sono quasi doppi rispetto al nord, o anche al centro delle volte sono molto alti, e se si va a vedere chi ha dovuto affrontare una spesa sanitaria privata e ha incontrato difficoltà economiche, la maggior parte vivono al sud, 53,8%, anche per via del reddito. Allora la domanda qui è, mi scusi, qui c'entra poco la spesa, qui è l'incapacità o addirittura in alcuni casi la corruzione, le ruberie, quello che raccontiamo nella nostra classifica. Perché, vede, dottoressa, noi abbiamo delle regioni che sono in rosso, diciamo, in disavanzo sanitario. Sono Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Sicilia, Calabria, Piemonte, Puglia. Nel 2015 il rosso era sceso comunque a 1 miliardo di euro. Ma la cosa interessante è che, come ricordiamo spesso, ogni anno ci sono 4 miliardi di euro che si spostano dal sud alle strutture del nord per via del turismo sanitario. La Calabria deve dare come compensazione per i suoi, per i calabresi che vanno a farsi curare al nord, 250 milioni ogni anno, la Campania 270, il Lazio 200 milioni, la Puglia 180 milioni, la Sicilia 160 milioni. All'opposto incassano dalla mobilità, dal turismo sanitario attraverso il riparto dei fondi. La Lombardia incassa 500 milioni l'anno, 5 in più, perché cura persone di altre regioni. Emilia Romagna 330 milioni, Toscana 150 milioni, Veneto 75 milioni. Possiamo dire che qui la responsabilità però è locale, non è sempre dello Stato? Sì, lo possiamo dire senza tema di essere smentiti. C'è un problema di gestione regionale della sanità, perché è vero che ogni regione ha una situazione profondamente differenziata, che non in positivo, però il problema è che c'è una incapacità di garantire una risposta e di equità, cioè dare le stesse cose a parità di bisogno, quindi insomma, adesso su questa attuazione dei LEA vedremo come andrà a finire, ma oggi la situazione è di una profonda differenziazione nella capacità dei sistemi regionali sanitari di rispondere ai bisogni dei cittadini anche a parità di condizioni, ed è un problema di capacità di gestire le risorse. Io su questo sono molto d'accordo, cioè la classe dirigente che in questo, fino ad oggi ha avuto responsabilità nella gestione della sanità dovrebbe render conto, ecco, di quello che ha fatto. Io sono d'accordo con lei su questo, perché c'è una... Cioè, invece che dare la colpa sempre al sistema, qualcuno è il capitalismo che piace a lei, lei vorrebbe liberalizzare e privatizzare anche l'ossigeno. Guardi che non è che un giorno possa essere accusato di essere keynesiano e il giorno dopo di essere un iperliberista. Andiamo a ognuno il suo. Oscar Giannino è da sempre un liberista, io magari sono più per l'intervento, diciamo, pubblico, non per lo spreco pubblico, ma per l'intervento pubblico in momenti di crisi. Ma detto questo, non c'entra una mazza, perché qui non stiamo parlando dei soldi che complessivamente spendiamo, stiamo parlando dei soldi che vengono rubati, delle inefficienze, dei costi della spesa sanitaria, spesso purtroppo al sud, spesso in regioni dove c'è una presenza fortissima della criminalità organizzata, tant'è che chi può, i cittadini di queste regioni vanno a farsi curare da un'altra parte. Allora possiamo dare una volta tanto, invece che accusare il sottoscritto di essere un razzista antimeridionalista, dire che la classe dirigente politica amministrativa del sud mediamente è peggio di quella del nord, che pure non è, diciamo, a livello da Nobel, e che questo si vede anche nella gestione della spesa sanitaria. I direttori sanitari non vengono mica dalla Germania, in Campania, in Sicilia, in Calabria e in Puglia, vengono dal territorio, e sappiamo che lì si muovono anche interessi. Le regioni, oltre che occuparsi del prestigio di, diciamo, degli ulivi pugliesi, qua non potevano dire, devono anche occuparsi del perché i loro cittadini vanno in altre regioni a farsi curare, non dare sempre la colpa all'arbitro, la colpa dell'invasione delle cavallette e quant'altro. Cioè, c'è sempre una scusa, non ci danno i soldi, ce l'hanno con noi, di qua, di là, siamo ghettizzati. No, è che delle volte forse dovreste mettervi la mano sulla coscienza e vedere se gli amministratori locali e la regione e quant'altro ha operato bene, o ha usato magari gli elementi sanitari come struttura di consenso, o peggio ancora, ci sono molti casi individuali di malversazioni. Nel ringraziare la dottoressa responsabile del Censis per la parte welfare e salute, che ti va caro, sì, dai, datemi Belushi. Ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria non mi aveva portato il tight, c'era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, non è stata colpa mia, lo giuro su Dio! Pour me a taste of something good. Allora, dalla sanità alle banche, il volo è abbastanza pindarico, però insomma, dalla sanità alla salute delle banche, possiamo dire così, e insomma qui noi speravamo, dico tra virgolette, che la vicenda del Banco Popolare in Spagna, crollato del 40% in una settimana a valore di azioni, rischio bail-in, spingesse l'Europa a dire, e anche Francoforte, beh insomma qua dobbiamo affrontare il tema delle sofferenze bancarie, perché non è solo un problema italiano, in questo caso il Popolare di Vicenza e Veneto Banca, ma è un tema anche spagnolo, quindi insomma. E invece siamo stati subito smentiti, anzi peggio ancora, l'effetto rischia di essere boomerang, perché il gruppo, il colosso bancario spagnolo Banco Santander ha acquistato per un euro l'intero Banco Popolare, ma soprattutto la lezione che ne deriva, secondo varie opinioni a livello europeo. Ecco, vedete, la Spagna ha saputo come gestire un problema. Voi siete ancora lì come italiani a chiedere appunto all'Europa di levare questo miliardo di euro che ha chiesto di soldi privati per far intervenire lo Stato. Gli spagnoli si sono mossi con una soluzione interna di sistema e quindi diciamo forse ci si ritorce contro. E questa è la domanda che ho per il nostro ospite, ma dopo il traffico 349-238-6666 per sms e WhatsApp. Focus Economia. La domanda insomma è chiara: se la soluzione trovata in pochi giorni per il Banco Popolare non isoli ancora di più l'Italia. La giro volentieri a Marco Ferrando del Sole 24 Ore. Buonasera Marco. Sì, buonasera a voi. E al professor Donato Masciandaro, che è editorialista del Sole 24 Ore, insegna politiche monetarie all'Università Bocconi di Milano. Buonasera professore. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Vorrei partire da lei, insomma la domanda è molto semplice, speravamo che Popular potesse aiutare una maggiore comprensione delle sofferenze, siamo di nuovo soli? Tra l'altro con, tra virgolette, lo schiaffo che in Spagna l'hanno risolta in un secondo, insomma. Il caso spagnolo mostra sicuramente quando un paese sa far sistema e un altro no, nel senso che ci mostra come di fronte a un sistema di regole europee che magari fisiologicamente ha zone d'ombre, flessibilità, eccetera, eccetera, se dall'altra parte c'è un paese che esplicitamente o implicitamente fa sistema, il paese si risolve il problema. Nel caso bancario, il nostro ondeggiare a partire da quando non siamo andati di fronte alla Corte di Giustizia, di fronte all'ostacolo europeo di considerare il fondo di depositi un'iniziativa privata, ecco, cioè, se di fronte all'opacità si risponde con l'incertezza, sia il caso italiano, se rispetto all'opacità si risponde come un sistema, sia il caso spagnolo. Beh, insomma, mi sembra che la sua analisi sia molto... Forse è un po' semplice, semplice, tranchant sì, semplice no. Allora, Marco Ferrando, anche per te la stessa domanda, cioè, insomma, speravamo, vedrai che adesso, siccome anche la Spagna ha un problema grande come una casa... Invece la Spagna si è risolta e siamo tornati a essere solo noi quelli che ancora non riescono a trovare una soluzione sul miliardo chiesto dal commissario europeo Vestager ai privati se vogliamo che lo Stato con 4 miliardi circa entri dentro Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Sì, è così. A onor del vero in Spagna hanno trovato una situazione vagamente più facile, nel senso che noi abbiamo in mente questi mesi di trattative con la Commissione europea, con la BCE per ottenere appunto l'applicazione di una fattispecie prevista comunque della BRRD, che è la ricapitalizzazione precauzionale dello Stato. E in più abbiamo in mente i tentativi informali da parte del governo della vigilanza con le banche italiane perché ci mettano del loro. In realtà in Spagna probabilmente se la sono cavata con una sola telefonata ad Ana Botín del Santander chiedendo o comunque proponendo un'operazione che il Santander ha un interesse a compiere, perché Santander è una banca di dimensioni globali, capitalizza 80 miliardi, ma non è leader in Spagna e quindi può avere un interesse di fatto a iniettare 7 miliardi nel Banco Popolare, perché non dimentichiamo che, come avete detto giustamente, la banca viene pagata un euro, ma poi ne sborsa 7 miliardi, ma il Santander si è impegnato appunto a investirne altri 7. Non voglio essere frainteso, euro quindi... è simbolico, però Santander ci mette 7 miliardi. Senti Marco, ti risulta che a questo punto anche il governo italiano stia facendo pressione su sostanzialmente Messina, ossia il numero uno di Banca Intesa, e Mustier, il numero uno di banca di Unicredit, per fare un po' come in Spagna, cioè i banchieri di sistema, e risolvere il tema Popolare di Vicenza e Veneto Banca? Sicuramente sì, non è un mistero, i contatti, le pressioni, gli inviti, chiamiamoli come vogliamo, sono in corso da settimane, anzi ormai da mesi, non dir da anni, visto che è dai tempi di Atlante, quindi siamo a più di un anno fa che di fatto si invocano le operazioni di sistema. È anche vero che noi, sia sul Monte dei Paschi, che però sembrerebbe a un passo dalla soluzione, che nel caso delle due ex popolari venete, ormai abbiamo portato talmente avanti la trattativa con Bruxelles e Francoforte da un lato, dall'altro le banche ormai sono molto provate da questi mesi di incertezza, peraltro c'è un azionista atlante di cui comunque bisogna tener conto che anche un intervento di sistema da parte di Intesa Unicredit sarebbe difficile da congegnare, perché a quel punto oggi basterebbe una pezza, basterebbe quel 1.250 miliardi milioni in più privati che sembra che Commissione e la BCE vogliano per chiudere l'operazione. Però li metti, ma in che modo, dove, che cosa porti a casa? Paradossalmente, come diceva il professore, abbiamo tentennato così tanto, ci siamo veramente complicati molto la vita, e oggi congegnare una via d'uscita di sistema non è facilissimo. Professor Mascendaro, d'accordo su quest'ultimo aspetto, cioè che va bene, insomma, anche immaginare di spingere su Intesa e Unicredit dopo quello che è successo in Spagna è troppo tardi adesso, e se sì, che cosa dobbiamo fare con queste due venete? Sono completamente d'accordo, se posso aggiungere il ricordo di come tutto è iniziato. È iniziato con un governo italiano che, invece di avere un tavolo solo sulle banche e quindi andare con la schiena dritta sul tema, aveva invece il bisogno di avere più tavoli aperti, perché da un lato c'era il tavolo della continua elemosina sulla flessibilità, sul deficit e sul debito, e dall'altro c'era il tavolo bancario. E quindi quando devi fare un quid pro quod, inevitabilmente diventi più debole, e la trattativa è quella... Cioè lei mi sta dicendo, abbiamo barattato un'operazione di salvataggio sulle banche perché dovevamo ottenere lo 0,2 e lo 0,3 di minor deficit sul PIL, per motivi anche... La fotografia fatta pochi secondi fa da dottor Ferrante non si capirebbe, e invece perché non, cioè o c'è una inferiorità antropologica del politico italiano rispetto al politico spagnolo, e questo io non lo credo, e forse invece è diverso che il nostro continuo mendicare la flessibilità sulla politica fiscale ci indebolisce sugli altri fronti, se perché, no non si spiega. Perché dico, o meglio, peggio ancora, magari la priorità era negoziare il deficit più basso e non quella delle banche. Fatto sta che io non ho ancora capito come ne usciremo sulle due venete, perché non vedo diciamo nessun tipo di avvicinamento, né Bruxelles verso l'Italia né le banche private italiane. Guzzetti ha chiarito più volte che le fondazioni non sono più disposte a mettere neanche un euro, per cui su questo non vedo grandi sviluppi, ed è, questo lo possiamo dire per certo, è venuta meno anche l'ipotetica sponda del Banco Popolare. Peggio, ripeto, mi sento, perché lì ci hanno dato anche uno schiaffo dicendo: guardate, noi in una settimana la cosa l'abbiamo risolta, voi state ancora lì a tergiversare su Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Per non parlare, lo so, mi scrivono molti, delle compensazioni per Popolare Etruria, Chieti, Ferrara e Marche, lì manca il decreto del governo, ed è scandaloso questo, visto che di queste banche parliamo da novembre 2015, per le compensazioni. E so che oggi c'è stata una manifestazione davanti alla casa della Boschi alla Ternina, riportano le agenzie. Comunque grazie sia a Donato Mascendaro che a Marco Ferrando, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.